con lo schema della Seconda Repubblica, che è stato incapace di portarci alle soluzioni dei problemi. Quindi la strategia è quella di superare il bipolarismo tra destra e sinistra, e la tattica è quella di presentare una lista unica che possa aggregare tutti i partiti che in vari modi si sono, i partiti o le forze politiche, i movimenti, le associazioni che negli ultimi anni si sono appunto portati alla ribalta cercando un posto al centro del sistema politico? Sì, questa è la strategia, naturalmente ancora con alcune perplessità rispetto al discorso della lista unica o no o meno, ma certamente il disegno è quello di andare a creare uno schieramento riformista. In fondo lo ha detto molto bene domenica il Presidente, i due schieramenti sono due schieramenti che hanno al loro interno forze riformatrici e forze conservatrici. Noi cerchiamo di scompaginare, cerchiamo di fare in modo che emerga quel riformismo che è necessario, ribadisco, per far uscire il Paese dalla situazione. Vorrei dire che c'è bisogno di una situazione straordinaria, persino culture politiche molto diverse, che in altri tempi avremmo detto alternative, devono convergere per andare a cambiare il volto dell'Italia. Poi ci sarà il tempo eventualmente per andare a presentare ricette diverse, ma oggi debbono il più possibile confluire. Noi crediamo fermamente che sia necessario questo passo in avanti e crediamo che appunto ci voglia il concorso della cultura cattolica, cattolico-sociale, cattolico-democratica, del concorso della cultura liberale. Abbiamo bisogno però anche e soprattutto di molta novità, nel senso che io credo che dovremmo fare in modo che ci siano persone diverse rispetto a quelle che hanno gestito la Seconda Repubblica, non per nuovismo ma per segnare appunto una discontinuità anche nel metodo, nel modo del far politica, che in qualche modo i cittadini chiedono a gran voce. Ecco, i cattolici sono un po' dispersi dopo la fine della Democrazia Cristiana, sono dispersi in entrambi gli schieramenti, sono un po' in tutti i partiti. Ecco, è un po' ambizioso il progetto di riaggregarli in un'unica forza politica? È questo il progetto che avete? No, non è questo, nel senso che io credo che sia naturale e giusto che i cattolici stiano in forze diverse. L'essere cattolici non vuol dire avere una cultura politica omogenea. Certamente però forse possiamo oggi ritrovarci in molti di più di quanto non si fosse in altri momenti, perché il momento dell'urgenza spinge a trovare i punti comuni più che quelli che dividono. Ribadisco, questa è una stagione per certi versi eccezionale nella quale dobbiamo trovare appunto le sintesi più che i motivi per dividere. Ciò detto, è chiaro, non ambiamo a essere il partito dei cattolici, non lo era nemmeno la Democrazia Cristiana, tantomeno lo saremo noi, ma una forza nella quale i cattolici possono stare serenamente e possono esprimere le loro potenzialità. Ecco, ecco, per sintetizzare un po' la posizione, si può pensare a quella che è stata nel dopoguerra l'economia sociale di mercato, che ha avuto forse più in Germania che in Italia una forza appunto di essere come strategia politica, come strategia economica, un'economia sociale di mercato che coniughi elementi appunto di mercato, di forte mercato, quindi di scarsa presenza dello Stato, con forti elementi di solidarietà e di equità? Sì, io credo di sì, peraltro adesso purtroppo dovrò chiudere per motivi di aereo, ma io credo che il tema sia proprio quello di fare questa grande scommessa che già nel passato è stata vincente. In fondo, nell'immediato dopoguerra c'è stato la crescita economica che il mondo liberale ha spinto e ugualmente la crescita della solidarietà che il mondo cattolico ha fortemente voluto. L'unione di queste culture, come allora, oggi potrebbe portare a questo nuovo modello economico e di sviluppo economico, ma anche sociale. Ecco, grazie ad Andrea Rivero per questa sua presenza. Sentiamo appunto che ci sono dei problemi di collegamento anche per il volo. Se è possibile, un'ultima battuta sul fronte comunque della strategia politica. L'obiettivo è quello di una grande alleanza che potrebbe comprendere entrambe le forze, sia la destra sia la sinistra? Diciamo i riformismi di tutti i mondi, perché vogliamo farli emergere complessivamente. Grazie mille ad Andrea Rivero, auguri per quanto possibile, in bocca al lupo per questo impegno politico dopo aver lasciato le Acli, buon viaggio perché sta appunto partendo. Lo ringraziamo di essere stato pur velocemente con noi e passiamo allora alla seconda parte della nostra mattinata di Mattino 24. Ecco, vi ricordo i messaggi SMS 349-238-6666 e il numero verde 800-24-0024. Ecco, prima di entrare nel tema della seconda parte, che dedicheremo un po' un bilancio, ma anche le prospettive sul fronte dei consumi, sul fronte del turismo, di queste vacanze di Natale. Ecco, vi sottolineo che i messaggi SMS, l'argomento che ha un po' colpito di più della rassegna stampa che ho fatto nella prima parte fino alle 8, è stato quello delle rotatorie. Molti ci dicono, ma insomma, se il 55%, come sottolinea questo articolo di Repubblica, degli automobilisti si trova un po' in imbarazzo, rallenta le rotatorie, si chiede cosa fare, vuol dire che sono automobilisti imbranati. Ma un altro ascoltatore giustamente sottolinea che le regole ci sono, e le regole sono quelle che chi gestisce, chi costruisce queste rotatorie dovrebbe mettere un'adeguata segnaletica, perché sia previsto appunto che chi sta percorrendo una rotatoria abbia la precedenza sugli altri, anche se gli altri vengono da destra, e dovrebbero esserci appunto dei segnali in questo senso. Ovviamente, se mancano i segnali e se la rotatoria è così improvvisata, valgono le regole del codice della strada, che prevedono appunto che si dia la precedenza a chi arriva da destra, se questo chi arriva da destra non ha un segnale di dare la precedenza sulla propria strada. Quindi ci sono delle regole precise, regole che vanno osservate in un caso o nell'altro, ma chi costruisce le rotatorie è in certo senso obbligato a mettere un'adeguata segnaletica, anche perché, come sottolinea peraltro l'articolo di Repubblica, chi costruisce la rotatoria ha anche un contributo da parte dell'Unione Europea, perché sono queste rotatorie contribuiscono alla sicurezza stradale. Quindi ci sono dei fondi europei per la sicurezza stradale, questi fondi europei vanno spesi bene, vanno spesi anche adeguando non solo il tipo di circolazione ma anche la segnaletica. E allora cominciamo a fare il punto su questa breve stagione di vacanze e di consumi. Buongiorno ad Alessandro Cianella. Buongiorno a voi. Direttore del Centro Studi Federalberghi, Federalberghi appunto, che rappresenta gli albergatori italiani. Possiamo dare un primo sommario giudizio, bilancio delle prenotazioni, di come sta andando, come stanno andando l'offerta Italia in questa stagione invernale? Sta andando bene come avevamo previsto, soprattutto nel Natale si conferma l'andamento negativo del movimento degli italiani sia in Italia che all'estero. Complessivamente, sia da Natale e Capodanno, avremo una flessione di circa del 13% di coloro che si potranno permettere una vacanza fuori dalla propria città. Ovviamente la situazione determinata dalla grave crisi economica, questo lo si vince anche dalla caduta dei consumi natalizi, quelli più diciamo più immediati. I regali di Natale hanno subito una grave flessione, il turismo purtroppo non fa eccezione sotto questo profilo. Purtroppo è la più grave crisi che noi abbiamo affrontato dal dopoguerra ad oggi. Auguriamoci che diciamo l'anno che sta per venire porti un momento di riequilibrio, riparta questa macchina del turismo che per l'economia del nostro paese è fondamentale. Ecco, comunque alcuni dati sembrano indicare che per le località, diciamo, tradizionali di turismo invernale il bilancio sia, se non positivo, comunque della sostanziale stabilità, mentre c'è una maggiore flessione per quelle che sono le città d'arte, gli itinerari, certo, tradizionali. Certo, certo, evidentemente la montagna fortunatamente tiene abbastanza, e del resto il forte innevamento ha favorito e favorisce, diciamo, quel tipo di vacanza. Soffrono di più le realtà, il mare, le città, non certo le grandissime città d'arte che ancora tengono banco. Lo si verifica anche all'estero, c'è tenuta sulle grandi capitali europee, c'è il crollo dei viaggi più lontani. Poi, insomma, riflette un po' una situazione di incertezza e di difficoltà economica che ognuno di noi in questi ultimi periodi, diciamo, ha dovuto constatare. Ecco, approfondiremo un po' questo elemento nella seconda parte. Vorrei, prima di concludere questa prima parte, una battuta da Fabio Rossello. Buongiorno Rossello. Buongiorno a voi. Presidente dell'UNIPRO, Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche. Ecco, i cosmetici sono una delle maggiori risorse per chi deve fare dei regali. Possiamo fare, dottor Rossello, un primo bilancio di questa campagna natalizia? Ma è certamente, non posso essere particolarmente contento di una situazione di questo tipo, nel senso che il Natale, a fronte proprio di questa contrazione importante, anche proprio della propensione al consumo che le persone hanno, indipendentemente da tutto, direi che non è andato e non sta andando come negli anni scorsi, anche se fortunatamente il nostro settore forse meno peggio, ecco, decisamente meno peggio di altri settori, per cui un Natale che è vissuto anche e soprattutto, credo, un po' dalle persone con una certa depressione personale che porta poi a una spesa, oltre che ovviamente a una mancanza reale di denari, porta poi ad una spesa meno invogliata anche in un periodo come quello natalizio. Comunque è evidente che le manovre anche fiscali sotto il Natale non possano essere, secondo me, cioè debbano essere anche riviste, probabilmente perché bisogna pagare le tasse al 30 novembre, poi al 16 di dicembre, l'IMU, cioè, penso siano oggettivamente anche questi sicuramente degli elementi che comportano. Certo, non è il massimo per facilitare i consumi. No, questo sicuramente no, magari ad agosto, va bene, ok, qualcosa mi spiace per il turismo certamente, però insomma scegliamo un momento o comunque una natalizzazione. Il Natale è sicuramente un momento per moltissimi, certo, settori di grande investimenti anche in consumismo, e lo blocchiamo ovviamente se abbiamo delle tasse in questi periodi. Ci sono molti messaggi che si susseguono sul problema delle rotatorie, e ovviamente è un problema molto sentito, tutti quelli che guidano si trovano di fronte a questa novità degli ultimi anni che rende più fluida la circolazione. Ecco, un rotatore ci ricorda, è cortesia mettere le frecce per indicare che si vuole uscire, anche perché chi deve entrare sa che chi esce poi non interferirà con il proprio cammino. Ma parlavamo appunto di consumi natalizi, ne stiamo parlando con Alessandro Cianella, direttore del Centro Studi Federalberghi, con Fabio Rossello, presidente Unipro, Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche. Dottor Rossello, diceva, si sentono gli effetti appunto della crisi ovviamente, ma anche delle tasse e anche del timing delle tasse, di aver fatto pagare un po' molte tasse nell'ultima parte dell'anno. Ecco, però forse le industrie cosmetiche, dicevo forse con una battuta, aiutano a essere un po' in controtendenza, uno si consola un po' cercando qualcosa di bello, di cosa che faccia piacere. Può essere così, può esserci questo effetto psicologico per i cosmetici, dottor Rossello? Ma sì, c'è sempre stato. Io credo che il cosmetico faccia parte ormai di quei consumi irrinunciabili che, riutilizzando una cosa che dico spesso, insomma, ci fanno stare bene con noi stessi, e quindi questo poi si trasmette sugli altri, cioè permette poi una relazione migliore con gli altri, e questo è fondamentale. Questo Natale non si può rinunciare al cosmetico, quindi è evidente, c'è una contrazione specialmente in alcuni canali, perché alcuni canali sono e soffrono un pochino di più, anzi nel nostro settore prettamente le profumerie, anche se anche le farmacie, che fino all'anno scorso avevano avuto un andamento decisamente migliore, cominciano a segnare un pochino il passo. Comunque, mentre la grande distribuzione, per terminare, anche se, ecco, sta andando sostanzialmente in modo direi stabile, statico, che non vuol dire particolarmente bene, considerati gli elementi inflattivi, e i canali professionali invece sono in calo, alcuni anche molto forte, le statiste siamo -7,5%. Tolti i numeri, a parte i numeri, no? Terminando sulla domanda, certamente diventa irrinunciabile un cosmetico, un po' è un regalo, a parte il profumo, a parte le cose, le icone anche del Natale o del regalo, certamente è un qualche cosa che ci piace anche regalare a noi stessi, insomma. Ecco, infatti c'è questo doppio aspetto forse nei cosmetici, e così come ci piace regalare a noi stessi anche una vacanza in buoni alberghi. Mi rivolgo ancora ad Alessandro Cianella, direttore del Centro Studi Federalberghi. Ecco, lei accennava al fatto che c'è una crisi che riguarda sia la clientela italiana sia la clientela estera, diminuiscono anche gli arrivi dall'estero per la situazione un po' complessiva dell'economia europea e internazionale, dottor Cianella? Ma un po' meno, sicuramente la crisi riguarda soprattutto e prevalentemente il mercato domestico, il mercato italiano, ancora fortunatamente il nostro paese è largamente attrattivo rispetto alla clientela estera, e è quello che un po' che ha contenuto la crisi di tutto il 2000, e 12 anche del 2000, del passato 2011. Auguriamoci che l'Italia resti all'attenzione, resti attrattiva, resti al vertice delle mete preferite dagli stranieri. Del resto è la leva su cui occorre puntare anche per risollevare, tra virgolette, l'economia del nostro paese. La circostanza che nella cosiddetta agenda Monti si sia dedicata un'attenzione all'arte, alla cultura e al turismo sta appunto a significare che evidentemente questo settore ha le potenzialità per dare un contributo notevole allo sviluppo e alla crescita della nostra economia. Ecco, passiamo un po' dai grandi numeri, dalle grandi tendenze, a vedere poi nel concreto come in una località turistica, in un albergo, si sta vivendo appunto questo momento economico. E saluto Werner Kahl, buongiorno Kahl. Buongiorno. Vicepresidente dell'Associazione Turistica di San Vigilio di Marebbe, ovviamente albergatore. San Vigilio di Marebbe è una località vicino alla Valpusteria, collegata a Dolomiti su Peschia, Plan de Corones. Ecco, come si vive? Qual è il primo bilancio che si può fare, soprattutto sul fronte della clientela? Tutto esaurito innanzitutto in questo periodo? Questo periodo, per fortuna, tutto esaurito, però ahimè questo va fino all'Epifania, dopo la situazione cambia. Una cosa positiva è che c'è un grosso interesse per la montagna, per lo sci, specialmente in questo periodo sotto le feste. Secondo me è un potenziale che bisognerebbe sfruttare. Anche gli italiani hanno mostrato molto interesse, anche poca sensibilità sui prezzi, quindi disponibilità di voler passare le feste in montagna sciando, perché ovviamente hanno il vantaggio della vacanza scolastica. Qui, secondo me, dato che approfitto che c'è il direttore di Federalberghi, bisognerebbe cercare, anche lui ha detto che le potenzialità del turismo per l'Italia sono, per l'economia del nostro bel paese, senz'altro il futuro. Sfruttare la situazione di organizzare delle vacanze settimane bianche, scaglionando a regioni come lo fanno in Francia, come lo fanno in Austria, partendo da metà gennaio, ogni regione una settimana fissa di vacanze scolastiche, in modo da dare la possibilità all'italiano di fare la sua vacanza, la sua settimana bianca, senza dover sotto virgolette marinare la scuola, certo, agli alunni. Ecco, questa è la proposta. Secondo me è un potenziale, una proposta proprio anticrisi, se vogliamo chiamarla. Ecco, sì, indubbiamente, anche se bisogna tener conto poi anche delle difficoltà economiche, non tutte le famiglie possono ovviamente permettersi, ci vorrebbe giustamente, certo, anche un intervento di supporto. No, ecco, da quello che ho capito adesso, l'interesse economico c'è, perché la richiesta per Capodanno sarebbe da riempire tre volte le strutture alberghiere nelle zone sciistiche, e sfruttando questa onda si potrebbe senz'altro, ovviamente non tutti possono farlo, però certo, gran parte possono. Ecco, sul fronte invece della clientela, come è cambiata in una zona che era tradizionalmente, che è, spero ancora, tradizionalmente meta anche di turisti tedeschi e austriaci, come appunto l'Alto Adige, stanno cambiando anche i flussi turistici, Werner Kahl? I flussi stanno cambiando, che c'è molto interesse di clientela dell'est. Parlo di paesi come la Polonia, Repubblica Ceca, anche pian piano qualche famiglia russa che si interessa alla zona della Valpusteria, che tradizionalmente vanno molto in Austria e anche nelle zone Val Gardena, Val di Fassa, però adesso incominciano a venire. Comunque i tedeschi, i svizzeri per il periodo estivo sono sempre molto frequenti, e anche per l'inverno, svizzeri ovviamente meno, perché loro rimangono nei loro comprensori. Comunque la clientela più o meno non credo che cambi, prevalentemente sempre gli italiani, la maggioranza, poi tedeschi e appunto del paese dell'est. Ecco, mi rivolgo anche ad Alessandro Cianera, dottor Cianera, direttore del Centro Studi Federale Berghi. Molti messaggi SMS che si stanno arrivando, il nostro 349-238-6666, ma vi ricordo anche il numero verde 800-24-0024, ci dicono i prezzi degli alberghi sono troppo cari. Allora Alessandro Cianella, questo è vero? Cioè i prezzi degli alberghi non sono diminuiti, dice un messaggio. Ma guardi, in Austria e in Grecia i prezzi sono diminuiti negli ultimi anni. Ma guardi, negli ultimi anni i prezzi dei nostri alberghi sono rimasti sotto il tasso di inflazione, sono dati ISTAT, non dati di Federalberghi. Noi scontiamo purtroppo inevitabilmente un livello complessivo di costi che in altri paesi non sono minimamente comparabili o confrontabili. Evidentemente dobbiamo cercare di migliorare la nostra attrattività attraverso l'innalzamento della qualità delle nostre strutture alberghiere. Dimentichiamoci di poter competere con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, se pensiamo per esempio alla vacanza estiva, come si fa a competere con paesi come il Marocco, piuttosto che la Grecia, piuttosto che la Croazia, paesi dove i costi complessivi, a cominciare dal costo del lavoro, sono costi, dire la metà dei nostri è poco. Ma comunque, al di là di questi aspetti che sicuramente al consumatore premono evidentemente e interessano, sta di fatto che complessivamente il nostro sistema ancora è fortemente appetibile e quindi grazie a questo interesse che suscitiamo, al miglioramento della qualità, continueremo, ritengo, ad essere sempre più competitivi. Ecco, in questo senso mi rivolgo ancora a Werner Kahl, vicepresidente dell'associazione turistica di San Vigilio di Marebbe. Si può dire però che l'offerta turistica è abbastanza differenziata, cioè c'è chi cerca l'albergo di lusso, ma chi cerca anche il bed and breakfast e lo può trovare soprattutto in queste zone turistiche. Werner Kahl? No, certo, San Vigilio di Marebbe offre gli alberghi 4 stelle superiore con tutti i comfort possibili, bellissimi centri benessere con piscine, centro sauna, spa all'avanguardia, come anche agriturismi, bed and breakfast, appartamenti, ville da affittare, delle lodge, addirittura c'è una villetta nel parco naturale, la novità di quest'anno, quindi ci sono tante possibilità a diverse qualità di prezzo. E appunto per quanto riguarda la questione dei prezzi, secondo me la qualità prezzo, specie nella nostra zona, è veramente valida, perché per il prezzo che si paga si ha tante cose. E poi ovviamente il bello della nostra zona è la familiarità delle strutture, sono tutte strutture a condizioni familiari che danno il loro calore umano proprio all'accoglienza dei nostri ospiti. Ecco, sicuramente è una caratteristica dell'Alto Adige, ma possiamo dire è una caratteristica dell'Italia, perché l'Italia è un paese assolutamente ospitale, non vorremmo essere accusati di fare privilegi. Abbiamo scelto questa realtà, poi abbiamo potuto scegliere molte altre. Complessivamente appunto l'Italia è un paese che ha una grande capacità di accoglienza, forse mancano un po' alcune strutture a livello proprio di infrastrutture, pensiamo ai problemi dei trasporti, ai problemi degli aeroporti, ai problemi dei collegamenti. In questo mi rivolgo a Alessandro Cianella, forse l'Italia ha qualche punto in meno rispetto agli altri paesi. Sicuramente sì, è un po' la nota dolente del nostro sistema di offerta turistica, che pecca tra virgolette sotto il profilo della infrastrutturazione dei mezzi di trasporto, soprattutto se poi pensiamo al nostro mezzogiorno, al nostro sud. Dovranno essere, e ce l'auguriamo che questo avvenga con il prossimo governo, la prossima legislatura, il miglioramento delle reti stradali, aeroportuali, ferroviarie, perché la raggiungibilità delle destinazioni turistiche è l'elemento chiave, l'elemento fondamentale. Non basta avere una bellissima realtà turistica se poi questa è difficilmente raggiungibile o è troppo oneroso raggiungerla. Questa è un po' la chiave di volta. Il piano strategico che il governo ha messo a punto, ma purtroppo non lo si è potuto adottare per la fine della legislatura, auguriamoci che lo sia quanto prima, contiene al proprio interno un capitolo speciale dedicato proprio al miglioramento della infrastrutturazione dei mezzi di trasporto. Eccoci qua, buongiorno ancora da Gianfranco Fabio. Per l'ultima parte del nostro 24 mattino stiamo parlando del turismo e dei consumi di Natale, cercando di fare un bilancio di quanto è venuto. Ci sono molti messaggi al nostro 349-238-6666, oltre alle telefonate all'800-24-00-24. I messaggi soprattutto dicono che altri paesi sono più economici dell'Italia. La Francia, per esempio, ha delle condizioni per le famiglie molto più favorevoli, e gli alberghi italiani, dice un altro ascoltatore, hanno dotazioni esagerate che fanno salire i prezzi. Ecco, sono ovviamente osservazioni anche sensate, anche se l'offerta italiana è comunque un'offerta varia. Chi cerca un albergo con grandi dotazioni può sceglierlo, chi cerca un albergo più semplice ovviamente ha dei prezzi più contenuti. Ma io vorrei chiedere a Fabio Rossello, presidente dell'UNIPRO, Associazione Italiana delle Industrie Cosmetiche, come vede appunto un po' le prospettive anche per il 2013, oltre a questo periodo natalizio. Ma come abbiamo detto, terminato questo periodo natalizio, si apre un anno che è ancora un anno di incertezze, perché credo che le incertezze derivino soprattutto dalla situazione politica e dalla difficoltà di una definizione che stiamo vedendo nel nostro paese da questo punto di vista. Non possiamo aspettarci che un paese cambi significativamente le proprie tendenze, quello che sta vivendo, se non ci sono certezze che in questo momento non stiamo vedendo. Noi come previsioni riteniamo che sarà ancora un anno abbastanza costante, perché l'imprenditoria comunque del nostro settore quantomeno è un'imprenditoria forte, che continua a dimostrare una grande intenzione agli investimenti, una grande direi proprio passione per il lavoro, perché ricordiamoci che in Italia, anche se forse pochi lo sanno, produciamo anche il 65% del make-up mondiale, quindi abbiamo una produzione, proprio un'industria che produce e che esporta tantissimo, e l'export soprattutto sta comunque andando bene, cioè quindi tutto quello che in questo momento è al di fuori purtroppo del nostro paese è quello che sta funzionando, e l'export sta comunque continuando a darci quel segno leggermente positivo che anche nel nostro settore fa la differenza, e quindi noi non parliamo di una crisi vera e propria, perché complessivamente siamo ancora in positivo, anche se di poco, ma di una crisi di consumi legati al nostro paese. 2013 quindi è un 2013 in cui dobbiamo vedere cosa accadrà poi appunto a marzo, che cosa accadrà da un punto di vista di sentiment del consumatore o comunque generale, perché questo sicuramente avrà un'influenza, ma a parte poi il sentiment c'è ovviamente la componente reale, cioè quella della propensione al consumo per la capacità di spesa. Questa non penso che cambierà o potrà cambiare. Certo. Velocemente, ecco, questa rimarrà abbastanza simile. Ancora un anno di transizione sul fronte interno, ecco, sul fronte invece della produzione, questo segnale positivo che viene dalle esportazioni, che l'industria cosmetica, che in Italia è un'industria sicuramente forte, come ci ha ricordato Rossello, è certamente un elemento positivo. Grazie Fabio Rossello, di essere presidente dell'UNIPRO, di essere stato con noi questa mattina. Torniamo a parlare di stagione invernale. Abbiamo in linea Gerard Vanzi, direttore marketing di Dolomiti Superski. Buongiorno dottor Vanzi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Dolomiti Superski è il comprensorio, uno dei più grandi comprensori del mondo, possiamo dire, per lo sci, che comprende appunto molte valli dell'Alto Adige e anche del Veneto, perché arriva fino a Cortina. Un primo bilancio rapido di questa stagione, pre-stagione invernale? Sì, innanzitutto è il comprensorio sciistico più grande del mondo, e spazia appunto, come diceva, sull'Alto Adige, Trentino e Bellunese. La stagione finora, devo dire, è andata abbastanza bene, siamo contenti di questo avvio di stagione, anche favoriti dalle ottime condizioni di innevamento. Era partito un po' in sordina con il Ponte dell'Immacolata, in quanto le date non erano favorevoli, il periodo è stato molto corto in quanto coincideva con il weekend, ma notiamo adesso che la settimana di Natale è sicuramente una delle migliori che abbiamo mai trascorso, in quanto anche questo favorito dalle date di come cade praticamente la settimana di Natale, in quanto il 22 e 23 era sabato, quindi tante persone hanno scelto appunto la settimana dal 22 al 29 per passare il Natale sulla neve. Ecco, quindi un primo bilancio positivo. Voi come state affrontando anche da un punto di vista, diciamo così, tecnologico il mercato nel momento attuale? Ma noi percorriamo da sempre praticamente la strategia dell'innovazione, della qualità, rinnoviamo continuamente gli impianti di risalita, prepariamo proprio il modo impeccabile le piste da sci, ogni notte sono 300 gatti della neve che percorrono tutti i 1200 km di piste per creare condizioni perfette per il giorno dopo. E poi ovviamente anche sul lato della comunicazione siamo prontati con le tecnologie più nuove, i social media, le applicazioni per rendere più accessibile e più condivisibile l'esperienza sulla neve. Ecco, ma i prezzi continuano a salire anche per gli abbonamenti per Dolomiti Super Ski? Sì, tradizionalmente gli ski pass vengono adattati all'inflazione con qualche punto percentuale in più quando se ne vince la necessità, ma questo principalmente per stare al passo con l'aumento dei costi degli approvvigionamenti, stiamo parlando di energia, di costo del personale, di attrezzature, che anche loro ovviamente, anche questi sono servizi o prodotti che aumentano ogni anno e quindi cerchiamo di adeguarci per non perdere quel vantaggio competitivo poi sul margine che poi riusciamo appunto a generare. Ecco, per gli utenti è sempre troppo l'aumento, ma bisogna appunto tenere conto di quanto si diceva che comunque i costi devono anche essere coperti dai ricavi. Sentiamo l'ascoltatore Roberto da Treviso, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Si dica. Ai suoi ospiti. Niente, molto brevemente, io credo comunque che ci sia anche questa volontà di nascondersi dietro la crisi, diciamo dal punto di vista economico che sta coinvolgendo il nostro paese, comunque l'Europa, per in realtà nascondere secondo me delle incapacità che abbiamo comunque sia a livello politico che secondo me anche a livello di da un certo punto di vista anche da livello degli operatori del settore, nel senso che io dico che è un periodo che comunque che l'Italia segue un trend negativo dal punto di vista turistico, nel senso che abbiamo perso posizioni rispetto alla Francia, rispetto alla Spagna, rispetto anche alla Grecia, cioè, e io dico che questo è assolutamente impensabile dal momento che il nostro paese poi soprattutto nella prospettiva futura si reggerà principalmente sul turismo, molto probabilmente si augura di no, ma sarà uno dei settori più importanti. Allora io dico, volevo semplicemente far riflettere un po' tutti, sia dal punto di vista politico, perché sicuramente manca una lungimiranza nel prevedere dei provvedimenti che possono comunque rilanciare il turismo, ma secondo me anche delle volte anche gli stessi operatori hanno delle mancanze, perché comunque non ci sono delle politiche comuni, magari anche di sinergie esistenti, anche tra le località balneari, le località interne e quant'altro, cioè più che altro un'incapacità, ecco, di sfruttare tutte le occasioni. Un richiamo, io la ringrazio di questo richiamo appunto alla necessità di cercare di essere attenti e sfruttare le occasioni. Abbiamo ancora un minuto e abbiamo in linea Dario Dardella, vice sindaco di Firenze. Abbiamo parlato prima di qualche difficoltà sul fronte del turismo delle città d'arte. Vorrei chiedere al dottor Dardella, appunto, a Firenze come sta vivendo questi momenti il turismo, se è vero che nelle città d'arte il turismo sta rallentando. Guardi, devo dirle che Firenze da questo punto di vista fa un po' eccezione. Proprio gli ultimi dati che abbiamo terzo trimestre del 2012, non abbiamo ovviamente il confronto ora del periodo natalizio, registrano un più 5% come arrivi rispetto al 2011, che comunque nel suo complesso aveva già registrato una crescita di circa il 15% sul 2010. Noi veniamo quindi da un trend abbastanza positivo che si sta stabilizzando per due motivi prevalentemente. Il primo è il turismo internazionale, cioè non c'è dubbio che a livello domestico, cioè di turismo italiano, le presenze sono ridotte e si riduce anche il tempo di permanenza. Questo è emblematico rispetto alla crisi economica che vive l'Italia, mentre c'è una ripresa significativa del turismo internazionale, ritornano i visitatori dagli Stati Uniti, ma sta crescendo molto il turismo asiatico, in particolare cinesi e indiani. È il risultato di una politica di lungo periodo, ecco, i risultati dal punto di vista dei flussi turistici dipendono anche da investimenti di medio-lungo periodo, ed è il caso di Firenze, e anche il fatto che si sia investito su una diversificazione di... Dobbiamo concludere, grazie da queste buone notizie da Firenze, pensiamo che la diversificazione e arrivi dall'estero possano aumentare, abbiamo fatto una panoramica della situazione, ringraziamo Peter Bascapè in regia, l'appuntamento è per domani.